storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. A voi tutti, cari ascoltatori, buonasera. Beh, buonasera per il momento solo da parte di Gesi, perché Antonio è andato in missione e arriverà più tardi. Va bene, allora siamo qui per trascorrere una un'oretta in compagnia, spero in buona compagnia, e avremo un ospite virtuale che è il professor Luciano Bellemo, che ci parlerà un po' delle feste di Chioggia e tutto quello che succede a Chioggia. Allora, prima di mettere in onda il professore, ci ascoltiamo una canzone. Beh, avete capito che si parlerà di Chioggia, quindi Venezia in sostanza. E facciamo ascoltare una canzone veneziana intitolata Saor, che è una versione originale. Prego. Scarpe, calzette, piatti e bidoni, porte e balconi, sa da freschi. In ogni cassea e sotto stramasso, spande partuto. L'odor da freschi, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, cambia mestiere. No! Sono Caragoi sui muri ghese, sciame che bria come a teatro dentro a sta casa. So come un gatto, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, cambia mestiere. No! Rede parangai, che casa, che gol, intera bagna, caemo e attratta dall'umidità. Cresce assaiata, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, fame un piacere, cambia mestiere. No! Eccoci di nuovo in studio. Come avete sentito, abbiamo ascoltato una tipica canzone veneziana e adesso abbiamo in linea il professor Luciano Bellemo di Chioggia. Pronto? Pronto, buonasera. Professore, buonasera e bentornato in questa trasmissione. Va bene, buon lavoro a voi. È sempre un piacere sentirla. Allora, stasera di che cosa ci parlerà? Delle feste veneziane e delle feste chioggiotte. Benissimo, allora l'ascoltiamo. Bene, allora le feste praticamente sono tipiche del mondo cristiano e anche ebraico. Nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento, abbiamo che la Sapienza fa festa col Dio che crea. E nel Nuovo Testamento il Paradiso è paragonato a una grande festa, un grande banchetto dove tutti fanno festa E quindi la festa è un elemento tipico, diciamo, della tradizione cristiana e anche della tradizione veneziana. Mm-hmm. Oggi pare che si sottolinei molto il tempo libero e poco la festa. La festa invece è un elemento fondamentale, è della famiglia, è della comunità e è un po' di tutti, anche a livello civile e a livello religioso. Se noi guardiamo le feste veneziane, possiamo dividerle in almeno 3-4 gruppi. Sì. Le feste religiose, come il Venerdì Santo, il Corpus Domini, Santa Caterina, la Domenica delle Palme, Santa Caria, eccetera, l'Assenza, dopo vedremo. Feste di religione, devozione tipicamente veneziana, è la traslazione del corpo di San Marco da Alessandria, il suo ritrovamento, San Stefano e San Nicolò, e queste sono alcune feste, il Redentore, la Salute, per la liberazione della peste. Poi abbiamo le feste di valore, cioè delle battaglie, delle guerre, del tentativo di colpi di Stato che sono andati a male, ad esempio abbiamo quella di San Vito Modesto e altre su dopo il 1215, il castello di Buonamore, e poi abbiamo le feste diciamo di giubilo popolare, cioè le feste che si facevano delle cene generali come per Santa Marta, San Girolamo, il rinnovo dei magistrati, eccetera. E da ultimo avevamo le feste di Questua, la Ciarastella e San Martino erano tipiche feste di Questua. Cioè Questua che i padroni andavano a prendere il loro avere dai contadini? No, le feste di Questua era un gruppo di amici, sì, che andava a cantare di casa in casa. E ogni casa gli regalava qualcosa e alla fine si mangiava e si beveva e si faceva festa. Ma che bello! Questa è la Ciarastella, cioè era il periodo dell'Epifania, c'erano, sì, delle canzoni, oppure l'11 di novembre, l'11 dell'11 dell'11 dell'anno scorso, che sì, era, non abbiamo avuto bisogno di Inca. L'anno scorso, sì, o degli Azzecchi, va bene, avevamo l'11 dell'11 dell'11, e andavano in giro di casa in casa e cantavano, e ancora oggi sono rimasti i ragazzini che a Venezia, il giorno di San Martino, fanno giro con la batarella, cioè con un sistema per fare il rumore più che ne possano, e giravano in gruppo di 4 o 5, con pentole e altre cose per far chiasso, e cantavano San Martino sende in soffitta a trovare sono vissa. Sono vissa, no, che c'era San Martino col culo intera. E col nostro sacchettin, cari signori di San Martino. Che bello! E allora andavano di bottega in bottega, vanno ancora, ci siamo. Non era un grande affare per i negozianti, perché questa festa, non come quelle americane, ecco, era una festa casereccia, sì, e chi ci guadagnava erano i pasticceri, a cui davano, che vendevano un dolce fatto di biscotto a forma di San Martino con la cappa e spada, guarnito con cioccolato, glassa, e si mangiava questo, era il giorno fatto, adesso lo fanno sempre più grande, sempre più costoso, ma era il regalo che facevano per San Martino. Non è il cavallo di San Martino. È il cavallo di San Martino. Ma che oggi invece c'erano proprio dei gruppi che andavano a cantare San Martino. E cantavano, ci sono vari pezzi, ad esempio, e in questa casa che siete tutto del formaggio e del prosciutto, del buon vino, siamo lì a cantare San Martino. E col nostro re di vin, attenzione che re di vin vuol dire sia re di vino Gesù, ma anche re di vino, sì, alcolico, viva, sì, San Martino, e davano qualcosa. E se non davano niente, chi cantava? E se non vuoi darne niente, che mi venga l'accidente. Ai, e le brasiole che aveva sotto il camin, vedeventa magnesio di San Pellegrino. Molto molto simpatico, molto, è proprio una cantilena. Certo, certo. E ultimamente sono state prese fuori, ci sono dei gruppi folcloristici che vanno ancora a cantarle, soprattutto a Sottomarina, che è una zona del mondo contadino, ma questa festa di San Martino è una festa che c'è in tutto il Veneto, perché San Martino che aveva dato il vestito al poverello. Il metamantello al poverello, sì, sì, sì, è rimasto. Beh, San Martino effettivamente è una festa molto sentita, Sì, insomma, specialmente Io che non sono di Treviso, che sono lombarda, da noi proprio davano lo sfratto oppure rinnovavano i contratti d'affitto. Anche per i contadini era anche il rinnovamento del contratto di affitto. Sì, appunto, appunto. E cantavano così: se non volevi darne niente, che ve venga un accidente, e le brasiole che avevi sotto il camin, ve diventa magnesia di San Pellegrin, e col nostro re divin, evviva San Martino. E questo era un canto appunto da questo. Lei ha composto anche una canzone di questo San Martino? No? No, siccome sa che me ne ha mandate due delle altre. Sì. Ne abbiamo adattata una al nostro parroco, ma non vale. No. Abbiamo adattata come questa. E questa qua da padre Angelo e Busetto, che era il nostro parroco, che butta giù subito un fiaschetto di quel vinello dolce prelibato che usa per la festa il suor curato. E to santo la incariola, e viva la berola. Cioè che noi facevamo come fosse la ciarastella, cioè sì, la Befana. Sì. E davano qualcosa, un salame, da bere, eccetera. E alla fine il gruppo faceva la sua festa. Che bello. Queste sono le feste, i canti di questo. È rimasta a Venezia quello dei ragazzini che vanno il giorno di San Martino, da bottega a bottega, con tutto questo rumore, a chiedere la festa di San Martino. Beh, insomma, sto San Martino è molto molto sentito dappertutto un po'. Ecco, poi ci sono le feste. Sì, poi ci sono le feste invece tipiche di Venezia, che sono quelle di tipo religioso. Ad esempio il ritrovamento del corpo di San aver portato il corpo di San Marco il 25 aprile. E a Venezia c'è anche la festa del boccolo. Sì. Perché il ragazzo offre alla ragazza di cui ha intenzioni buone di sposarla, gli offre il boccolo di bocciolo di rosa, che è un segno per dire ti voglio bene. Pensi ai fioristi che pacchia che fanno già. Ma le ragazze ci tengono a avere il boccolo. Ma mi pare che poi lo si continui anche dopo sposati. Sì, continua anche dopo sposati, che vorrebbe dire continuo, ma in realtà la festa era di questo tipo. Questa è la festa, adesso fra poco abbiamo anche la festa del Redentore. Il Redentore, o Redentore perdona che a tutte ste putele. Il Redentore è una festa dovuta alla prima peste, quella del 1568, i veneziani fanno un voto che se saranno guariti da questo potranno fare una chiesa nuova e quindi costruiscono un ponte di barche ogni anno, costruivano, adesso non lo fanno più a dire il vero, per andare al Redentore. E la chiesa del Redentore, ecco, è importante perché alla fine se fa i foghi. Sì. E i foghi si porta la polenta fredda magari e sardelle saore, sì, fatte con il sistema alla veneta, con i pinoli e l'uvetta in modo da renderlo più dolce. Acciosa invece si fa senza pinoli e senza uvetta, solo con la cipolla uh-huh. Con l'aglio, con l'olio di aceto. Olio aceto, sì. E il 4 settembre del 1576 il doge delibera che fa un voto, ecco. E la prima pietra di questa chiesa del 1577 fu fatta dal Palladio e consacrata nel 1592. Mm. E quindi ogni anno c'erano queste barche che facevano un ponte di barche per andare da Venezia alla Giudecca, perché il Redentore si trovava alla Giudecca, cioè sì, l'isola dall'altra parte. Ma lì suonano, mangiano, bevono, fanno di tutto. Si canta la sera e alla mezzanotte, 23:30, ecco, fino a mezzanotte, che è mezz'ora dei fuochi, magari inoltrata, e quindi le barche poi tornano lentamente a casa, dopo aver fatto una grande mangiata, una grande bevuta, e aver cantato i canti, ballato, tutta la sera. La tradizione dice che si può andare verso il Lido a vedere il sole che viene. Difatti arrivano all'alba verso il Lido, no? Sì, si va al Lido a vedere il sole che sorge all'alba. Un attimo che ci fermiamo per una canzone e poi riprendiamo, professore. Va bene. Ecco, allora la seconda canzone in programma è cantata da Polanca ed è Ogni giorno. Ogni giorno pensami, sole ti svegliano. Eccoci di nuovo in studio e siamo ancora col professor Bellemo Luciano. Professore, ci siamo. Allora, c'era una festa che era sia religiosa sia civile ed era la festa della fondazione di Venezia. Secondo la tradizione è il giorno dell'Annunziata, cioè l'Annunciazione di Maria Vergine. Cos'è, il 25 marzo? Il 25 di marzo era il giorno sia della nascita di Venezia nel 421 dopo Cristo, sia dell'Annunciazione, quindi era una festa di doppio valore. E i veneziani per questo cominciarono a contare gli anni, l'anno, l'inizio dell'anno, col primo di marzo, prima col 25, poi un po' scomodo col primo di marzo. Per cui durante il periodo veneto abbiamo scritto anno 1000, febbraio, more Veneto, secondo l'uso veneto. Per cui cominciando a marzo, gli ultimi due mesi sono gennaio e febbraio. Ah, quindi bisogna stare attenti quando si leggono i documenti se secondo il sistema che adoperiamo noi oppure secondo il sistema, diciamo, veneziano. Infatti nei documenti c'è scritto more Veneto, secondo l'uso di Veneti. E quindi per loro il Capodanno era il primo marzo? Prima di marzo, certo, era il Capodanno, certo, diciamo, dal punto della Repubblica. Poi lo facevano ricordando la fondazione della città di Venezia, secondo un'antica tradizione. E a Chioggia particolarmente? A Chioggia abbiamo invece una festa, che è la festa dei Santi Felice e Fortunato. L'abbiamo fatto qui l'11 giugno, perché i corpi di questi due martiri da Malamocco sono arrivati a Chioggia. Ed era una festa, anche questa, civile e popolare, perché i nostri pescatori a giugno tornavano dall'Istria, dalla Dalmazia, dopo essere stati 4-5 mesi a pescare dall'altra parte dell'Adriatico. Quindi tornando in giù era la festa della famiglia, anche dei botteghieri, perché i botteghieri cosa facevano? Notavano, la famiglia andava a comprare la roba, notava sul libretto. Quando arrivavano i pescatori con tutto il loro guadagno, lo pagavano i debiti. Allora se canteva per i debiti non ne picche, la forca non ne dà, e vaga remengo i debiti e chi che non ne ha. E canteremo a Monti. Ah sì sì. Ed è anche la festa dei ragazzi, perché le donne si andavano a togliere il cotone, il vestito, eccetera, i fiori, andarsi a togliere i dolciumi, il piccolo regalino, era un po' come la festa di Babbo Natale. La festa di Babbo Natale, sì sì sì. Ecco. E durava anche parecchio, perché il giorno 15 poi, sia a Chioggia sia a Venezia, c'era la festa di San Vito e Modesto. San Vito è quello del baio di San Vito, no? Sì, sì, sì, sì. Perché quel giorno, 15 di giugno del 1310, i veneziani avevano avuto la rivolta di Baiamonte Tiepolo, un colpo di Stato. Uh-huh. E mentre stavano combattendo al Monte di Rialto, sono riusciti con le barche ad andare a Chioggia a chiamare in aiuto il podestà Giustiniani, il quale con le sue barche è arrivato lì e ha dato una mano al doge a sconfiggere Baiamonte Tiepolo. Allora, ogni anno la festa di San Vito e Modesto si andava, i veneziani andavano a San Marco e i chioggiotti alla loro diciamo, alla loro cattedrale a Chioggia. La fate ancora, sì? No, adesso non si fa più perché finita la Repubblica, finita la festa, è gabbato lo santo. Adesso che qual è quella dell'11 giugno? Che è ancora... L'11 giugno sì. C'è la processione. Sì, e poi per cosa... Poi abbiamo ad esempio che ad agosto, dall'8 al 23 agosto, si faceva 15 giorni di festa. E dal 1 di settembre al 15 di settembre si facevano altri 15 giorni di festa. Quindi 30 giorni famosi. Ma per festeggiare che cosa? Erano... dati, perché poi dall'8 al 23 c'era San Lorenzo, l'Assunzione, sì, sì. San Rocco, San Bartolomeo, tutti questi santi si facevano 15 giorni e a sette probabilmente perché era finito il periodo della grande pesca e quindi c'era un momento di... I, diciamo, i 30 giorni che si fa adesso si faceva anche a quel tempo. Anche adesso li fate? No, no, adesso si fanno... No, perché se no... se no, oltre ai giorni... sì, appunto. Ma non sarebbe una brutta idea ritornare alle antiche tradizioni? Ma in questo momento... è un po' difficile. Sì, appunto, appunto. Comunque queste erano, diciamo, delle feste importantissime per la città. Infatti, nelle feste di palazzo della città di Chioggia del 1700 abbiamo questo ordine. In più, con una piccola annotazione... Gli debitori per i debiti civili non possono essere retenti per giorni 8 la Natività di Nostro Signore e per tutte le feste della predetta Natività. Sì. Quindi per 15 giorni potevano non pagare, dovevano aspettare. E dal giorno della Domenica d'Olivo fino alla festa di Pasqua di Resurrezione. Mamma, solamente, che, dice. Che belle cose! E queste erano tradizioni tipiche del, diciamo, del nostro territorio. Del nostro territorio. E ad esempio non facevano grandi feste a novembre e a dicembre, eccetto i santi, perché erano il periodo dell'acqua alta. Ah, sì. E quindi era un po' difficile fare feste e fare processione. Infatti, sì, diciamo, i punti de stella, dice i veneziani, cioè il periodo in cui è probabile che faccia acqua alta. Ah, sì, perché novembre e dicembre, beh. Sono i mesi della novembre quarta. È il mese della delle piogge, le dicono. Piogge, sì. Con Sant'Andrea, e c'era tutta una teritea, San Nicolò che va per via, Concessione Santa Maria, Santa Lucia, San Tommaso, Santo Mio che va per me. Ce ne sono tutte queste attività del Nostro Signore. E tutte, c'era anche una tiritera, Innocentini Santi e San Silvestro con i Socanti. Era una tiritera che ricordava questi punti di stella, cioè i punti dove c'era l'acqua alta, e quindi... E era un po' difficile poter fare le feste. Eh beh sì, beh, ma ne facevate abbastanza durante la primavera e l'estate. La Repubblica Veneta diceva che era un sistema perché la gente fosse contenta. Beh, difatti penso che le feste siano anche un momento di aggregazione. Era un fortissimo momento di aggregazione. Infatti quando sono arrivati i napoleonici nel 1800, proprio il giorno, continuato a fare la festa del Cristo. Cioè si faceva una processione dal Cristo di San Domenico fino al Duomo lungo la piazza, non sapendo che quella era la festa in cui si faceva a favore del Cristo e contro i nemici della Repubblica Veneta. E siccome non avevano studiato molto bene, quando sono stati a metà piazza i chioggiotti per un motivo o per l'altro si sono rivoltati e c'è stata appunto una rivolta con anche dei morti. Cioè a volte, non conoscendo le tradizioni, si rischia di andare a toccare dei certi nervi che poi reagiscono. Certo che il proverbio dice piuttosto che perdere la tradizione è meglio bruciare un paese. Anche questo è vero. C'erano le tradizioni invece del mondo contadino, che è quella del paevin, no? Sì. Che è quella, si brucia, brusare un catafascio per vedere poi quale tipo di... primavera si avrà, che anno si avrà. Allora dalle faville che vanno su da questo catafascio di legne si può intravedere e leggere se quale sarà il futuro, se sarà un anno buono o non buono. Quindi questo però è tipico del mondo contadino. Ma lo fate per l'Epifania, no? Sì, da noi no, ma a Padova, nella zona vicina a noi è tutto il padovano, oppure anche le zone del mondo veneziano contadino, anche da noi c'è questa tradizione. E voi non fate a Chioggia? No. Noi siamo Brusema e Veccia e basta. Ah, ho capito, questo dopo a metà quaresima? No, il giorno ultimo della Berola Sebusa e la Veccia. Sì, ho capito, perché qui lo fanno anche a metà quaresima, anche bruciano la vecchia. No, gli altri no. Adesso Adesso avete fatto questa festa dell'11 giugno. Adesso la prossima che farete? Ecco, la prossima che faremo adesso è il giorno, questo giorno 15, 16, 17, 18, 19, 20, abbiamo il Palio della Marcigliana. Quello di San Vito e San... No, proprio il Palio della Marcigliana. Si ricorda la guerra del 1379-80, quando i genovesi hanno occupato Chioggia, e tutti i sestieri, a Venezia, neanche di Zemo, e parrocchie e quartieri, si organizzai per gruppo e si fa... ci sono sistemi popolari, feste popolari, visione, e alla fine si tira il palio con la balestra, perché i Chioggiotti avevano una nave che ha combattuto anche a Lepanto, e dove avevano i migliori balestrieri, e quindi si lancia con la balestra e chi vince il palio. I nostri poi partecipano anche alle gare con la balestra a livello nazionale, sono stati anche campioni d'Italia, cioè hanno, perché c'era questa tradizione. Infatti a Venezia, anche a Chioggia, ci sono la Calle Bersaglio, Calle Stretta a Chioggia e Calle Larga Bersaglio, perché ricordava appunto il posto dove si tagliava, si sparava con questo. È simpatica una festa? Una festa proprio popolare, sono popolare, tutti vestiti in costume e saranno 700-800 figure, quindi sono parecchie. E ogni gruppo, parrocchia, ecco, rione, cerca di mettersi in mostra rispetto all'altro. E cerca di vincere. E poi si cerca di vincere, poi magari ci si prende in giro, e poi si fa la grande mangiata e bevuta alla fine, sia che abbia vinto. La mangiata e la bevuta penso che non manchi nessuna festa. Magna beva, porta bossa. Questa è la tradizione tipica del mondo veneto. Quindi cominciate venerdì a far festa. Sì, la 15 si fa prima della... la terza domenica di giugno. Ah, ho capito. E poi, E poi abbiamo la Sagra del Pesce. Ecco il punto. La Sagra del Pesce invece si fa a luglio, quella del mare si fa a agosto, però sono feste aggiunte dopo, ad esempio questa è stata aggiunta con il periodo, gli anni 40, 1940, in cui si vende il pesce fritto, oppure arrosto. E tutte le specialità del pesce di Chioggia vengono da tutto il Padovano, la Lombardia, eccetera, e si formano delle enormi file e ci sono questi posti dove viene fritto e offerto questo pesce. E questa festa del pesce cosa fate, in luglio o in agosto? La facciamo in luglio. In luglio, E in parte anche in agosto quella del mare. Sì. Ci sono ad esempio gli scout che organizzano, hanno un loro gruppo che organizza e poi i fondi che vengono su li vengono dati per le varie difficoltà a livello missionario. Sì, associazione. E l'associazione, tutto quello che c'è, una volta pagate le spese, vengono date, poi ci sono fuori i bollettini in cui si può vedere a che gruppo, in Africa, in Mato Grosso, dove loro ogni anno... E sono abbastanza devolvono azotoni. questa somma, sì. Ecco, allora questa abbiamo la festa del pesce, poi la festa del mare, in cosa consiste? La festa del mare invece danno il pesce azzurro gratuito. Pesce azzurro cosa sarebbe? Sardelle? Sardelle, sardoni. Sardoni, sì. Ecco, quei pesce azzurro che si fa. Le renghe, ma la gente non li conosce, quindi ha difficoltà a mangiarle. Perché le renghe sono tanto salate. E le grosse, perché non le danno fresche. Ah, ho capito. E le grasse che le cole. Allora, arrostirle in casa e fanno un odore un po' forte. Comunque è un pesce che viene dato per 2-3 giorni o a Chioggia sottomarina ai turisti che possono prenderlo gratis. Quindi ci sono altre file di altro tipo che dà il pesce con la polenta. Ma solo quel tipo di pesce? Solo quel tipo lì, che costa molto poco, perché da noi a Chioggia ne pescano parecchio. È una zona dove si pesca, insomma. Quando ero bambina io appunto so che quando andavo dai miei zii lo facevano, ma quello già seccato. Tipo baccalà oppure... Sì, ma lo chiamavano il cospeton. Il cospeton. Sì. Ma non era il nostro... Non era il vostro. Sono le renghe che vengono dai mari del nord, sono molto più grandi, sono salate. Sì, molto. È molto salate perché si devono conservare. Così mangiavano tanta polenta. Si mangiava polenta, si toccava e anche si beveva tanto. E si beveva tanto vino. Essendo molto salate. Sì. Era così. Effettivamente. D'altronde anche ci sono i dolci tipici, per i morti, danniati, che sono le favette. Anche qua? Favette, oppure anche dei dolci a marognoli. Cioè? Le mari, diciamo, e le vendono i dolcetti veneziani. Adesso non mi ricordo più il nome, vabbè, insomma, ma mio papà me li portava, perché cioè, c'erano anche dei dolci oppure dei cibi che erano tipici della festa. Certo che, e poi adesso tornando alle nostre feste, finita quella del mare, basta, chiudete? E poi abbiamo l'ultima festa di Sant'Andrea, che è l'ultima festa. Addirittura in novembre. È il 30 di novembre, perché secondo una tradizione è il primo che va a Sant'Andrea, quando che il parroco verge la porta, e dovrà dargli una carica di orae, una carica è un cestone, una carica di orae, e il cappotto del Salonicco. Cioè un cesto di orate. E il cappotto di Salonicco, Salonicco, che adoperava i pescatori. Okay. È una vecchia tradizione, il parroco non ha mai niente, ma secondo questa vecchia tradizione, però si fa la messa, vengono tutti i pescatori e offrono al seminario di solito una grande mangiata di pesce, ma pesce molto buono. E quando è il momento dell'offertorio si portano il pane e il vino, ma si porta anche questo ottimo pesce. Che bello! Si vederlo bello fresco. Mamma mia, una cosa simpatica. In chiesa si vede molto bene. Certo che insomma, vi divertite a Chioggia, dai. Beh, abbiamo anche questo, cioè come tutti, anche a Venezia, anche a Treviso, c'è la tradizione della festa come momento di... E poi ci sono i momenti tipici, il matrimonio, le varie feste con le canzoni, usi, costumi. Comunque, professore, io adesso non voglio stancarla, però se riprenderemo la trasmissione, io l'aspetto ancora perché deve parlarci dei dolci, di tante altre cose di Chioggia, vero? Anche se è da passare via. Ecco, ci sono proprio ogni zona ha il suo tipo di cibo. Magari ne parliamo. Perché il cibo è una cultura. Certo. Certo, c'è la cultura del cibo, sì. Comunque, professore, io non voglio appunto stancarla e farle perdere tempo come l'altra volta. E la ringrazio tanto e non so se lei può promettermi... Sì, che... posso dire che ad esempio noi abbiamo due feste che abbiamo saltato. Ad esempio, mi dica, sì. Quella del Gioba Grasso. Poi a Chioggia e a Venezia, il giovedì grasso, si faceva la caccia al toro. Cioè sì, ci sono ancora delle pitture del Longhi, se noi abbiamo dei disegni, si chiudeva una piazza, si metteva il toro e i cani che la izzavano e finiva la festa con il taglio della testa del toro. Che si dice ancora in italiano, tagliare la testa al toro. Tagliare la testa, effettivamente è vero. E ricordava appunto la vittoria della Repubblica di Venezia sul patriarca che avevamo qui di Aquileia. Ah, capito. E questa, e poi l'altra? E poi l'altra festa invece era la festa delle galline padovane. Le galline padovane. Non vogliono sentirla dire. Dopo la guerra, chiamiamola così, del Castello dell'Amore, a Treviso si fa una gara per chi riesce a farsi aprire dalle ragazze, dalle donzelle, il castello. Vengono chiamati tutti i nobili delle città venete. Sì. Siamo nel 1215 e... alla fine le ragazze trevigiane aprono le porte ai veneziani perché passano i zecchini d'oro. E allora i padovani si sentono offesi, loro hanno portato i dolci, eccetera, e bruciano il gonfalone di San Marco. E allora c'è la guerra, nasce una guerra. E il comandante veneziano che li cattura si chiama Marco Cacco. Ancora oggi la storia di Marco Cacco. Marco Cacco. Eppure ogni proverbio ha la sua origine. Infatti, se voi andate a Torre di Bebbia è scritto qui: combatté Marcus Cauci, in latino. In latino, Marco Cacco. Sì. Siccome fecero quel giorno il fiume Brenta ebbe un calo, non sappiamo perché, li fecero tutti prigionieri, questi padovani, e per prenderli in giro chiesero per ogni nobile una gallina. Che... E poi ogni anno dovevano portare 6 galline. E dice Cesare Cantù, siamo nel 1852, quindi ancora c'era, che dove portate 6 galline le mettevano per strada via e nane, certo che correva via a ciaparle. E da allora è venuto fuori il detto gallina padovana. Ma la gallina padovana no, non viene dalla Polonia. E questo invece è quello che contano i professori dell'Università di Padova. Qui dice che era un gallo. Padovana, una gallina che veniva da Cracovia, l'hanno accoppiata e è nata la gallina padovana. In realtà la storia è questa, e siccome i Ciosotti che diceva robe, dice che i Ciosotti è il gatto. Vede che ogni qui sarebbe da passare via una storia. Ecco. Quante belle storie. E queste galline padovane, appunto, venivano prese, poi venivano cotte e si faceva festa anche questo. Si mangiava il brodo, si mangiava la gallina. Era un mangiare da preti, ma una volta sì, il brodo di gallina e poi la gallina lessa era qualcosa di... Adesso ci si bada meno. Poi c'era l'altra festa, ultima, che chiudiamo, che è l'Ascensione, in cui c'è lo sposalizio del mare, ricorda le vittorie in Dalmazia del doge Pietroseolo, c'era la festa delle Marie, perché erano state prese delle ragazze che andavano per essere sposate e dai pirati, e i veneziani corrono in soccorso, le salvano e tornano a casa, e ancora oggi c'è la festa delle Marie a Venezia. Ma queste sono leggende leggenda, sì. Quella della Sensa invece ricorda lo sposalizio col mare che si faceva. Okay. E poi c'è la Salute, che è la festa, altra festa tipica dei veneziani, contro il 21 di novembre, e ricorda appunto la peste del 1631, che è stata famosa, Manzoni, per capire. La peste. Professore, io la ringrazio veramente di cuore, perché è stata una piacevolissima chiacchierata, e vabbè, io le chiedo appunto se quando sarà disponibile. Va bene, la ringrazio tanto, le auguro buone ferie. Ormai io sono in pensione, sono in ferie continua. Lei è in pensione, lei è al mare, quindi non ha bisogno. Abbiamo la spiaggia sottomarina. Non ha bisogno di andare a meno che non vada in bocca. No, vado a sottomarina sulla spiaggia a portare il mio nipotino e faccio via. Come si chiama? Si chiama Daniele. Ah, bene, allora un bacio a Daniele. Grazie. E tanti saluti a lei di nuovo, grazie. A voi, buon lavoro. Grazie. E ringraziamo di nuovo il professor Luciano Bellemo e andiamo con la terza canzone in programma, che è Canzone cantata da Lucio Dalla. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive. Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Può stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si vive. Uccide canzone, cercala se puoi, dille che non mi perda mai, va per le strade tra la gente, diglielo vera. Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede. Va per le strade tra la gente. Eccoci di nuovo in studio e nel frattempo è arrivato anche il nostro caro Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Ben arrivato. Buona serata agli amici e agli amici, grazie. Dove grazie. Sei stato fino adesso? A Ciliegie? Raccogliere o ballare? Diciamo che è una reminiscenza di tempi antichi, ecco, se vogliamo dire. Ho capito. E capito. Quindi ogni tanto bisogna rispolverare le tradizioni. Però hai voluto lo stesso onorare. Assolutamente, non onorarci, mancherei per nessun motivo. Almeno per la fine trasmissione. Certamente. Allora, che cosa ci leggi adesso? Allora, da sempre da Ghegera una volta, fiabe e tiritere, come che le contava i nostri vecchi, di Michela Bruniera e Gianfranco Siega. Illustrazioni di Paolo Mameli, Filippi Editore Venezia. Allora, come che la vecchia striga se morta brovada e come chi ha fatto a sepoltura da Drio del Ponere dei Gaine. Drento a casa, intanto, la vecchia che non la capiva più niente della scienza che la aveva indosso, la ciappa una caldiera, la lamette sul fuoco e con l'acqua leva il boggio, la tira su il sacco con gran sforzo e... Oh, issa! E sciaffete! La scarica quel popò del sasso dentro della caldiera. E così la caldiera si ribalta e tutta l'acqua brovente che casca indosso e la che fa tante vessighe grosse come macaroni. Aggiuto, aggiuto, fiol de una cagna de tomare in cusseon, cosa me gastu mai combinà. Aggiuto, demme la man che son trio scortegarme tutta che me pare de morir. E infatti, tra tremendi spasemi, la se sgionfa tutta e dopo un fial la mor tutta brovada e tutta piena di vessighe. Nove dico Pieretto, dalla contentezza scominse a saltare e a baiar cantando. La vecchia carampana sgrendenata un fiastrana, coi denti lunghi una spana, la se morta brovada, qua per scortegata. E sempre cantando e baiando, va avanti così un bel tocchetto, finché se ne accorge che c'era Drio venerzoso notte, e che il bosco si faceva sempre più scuro, e loro il dise in fra sé e sé. Mico paura inoltrarmi a scuro pal bosco de notte, ma datosi che ormai la vecchia la se morta cota stechia e non l'ho più magnarme conso, podaria fermarmi qua e mettermi a dormire finché non fa giorno. E così è già anche Drio per far, quando quel sente dee voce che veniva dal bosco e che chiamava: Pieretto, Pieretto, dove ti sei? Dove ti sei? Ti ne senti, Pieretto? Ti ne senti, Pieretto? Rispondi, Pieretto! Pieretto conosce subito che quelle è proprio le voci di sua mamma e di suo papà, che andava in cerca di lui come i mati, dappertutto, disperai, coi man sui cavei. E insomma, qui se ga trova, e pianti, e basi, e strucchi, e lagrime, e mussi, che non ve dico. E coi ga consuma tutte le sue agreme, Pieretto, dopo averge domandato tante volte scusa a sua mamma, e gli conta tutta la storia. E ora suo papà ciapa la vecchia tutta scortegata e la butta da Drio del Ponere dei Gaine. E se sta proprio a chi ga trova il tesoro della vecchia carampana. Un sacco grande de quei grandi da carboner, pien de oro e di argento, ma da rente, senti, senti, che c'era anche un sacco pian de deeti e dei osseti dei coste de quei putei che a vecchia carampana se gavea magna in sguassetto de tutti quei putei che c'era stai disubbidienti con sua mamma e con suo papà. Da quel momento dopo che Pieretto che ga impromesso a sua mamma e suo papà che il saria sta da quel momento in avanti sempre un puteo bravo e ubbidiente, i ga vivesto tutti insieme feissi e contenti. E Pieretto non si ga più rampegà sui alberi e non si ga neanche più lontana da casa. E ga butta via anche il Britoin che ormai non ga occorreva più e che il poteva anche farse mal. Ti ga capio la storia di Pieretto? Ara anche ti da non far mai come deo, che ti ga ad ascoltare sempre le raccomandazioni della mamma e del papà. E questa se a fiaba senza nessun consier, non che se oggio, non che se agio, e mia sti putei che avendo attaggio. Bella, che bella che è. Sono sempre delle fiabe straordinariamente evocative, diciamo, di epoche passate. E c'è un'altra che potremmo mettere, che è Betin Betei. C'era una volta un puteo che aveva nome Betin, che tutti io chiamava Betei, perché invece di andare a scuola piaceva andare a Nusei. E sto Betin viveva a casa del suo nonno. Una mattina suo nonno lo chiama e gli dice: Betin, ora che sei ora di andare a scuola. Ma Betin niente, come che non l'avesse sentito. E suo nonno che dice da nuovo: Betin, ara che è ora di andare a scuola. E Betin stavolta che risponde in drio. D'andare a scuola mi non conosce una voggia e non che vago proprio per niente. E ora suo nonno si inrabbia e gli dice, guarda che c'amo il baston. E Betin, attirando su le spalle, c'amio. E il nonno, baston, bastona Betin perché Betin non vuole andare a scuola. E il baston, mi noe? E il nonno si inrabbia anche col baston e gli dice, guarda che c'amo il fuoco. E il baston, tirando su le spalle, c'amio. E il nonno, fuoco, brucia il baston perché il baston non vuole bastonare Betin perché Betin non vuole andare a scuola. E il fuoco, mi noe? E il nonno si inrabbia anche col fuoco e gli dice, guarda che c'amo l'acqua. E il fuoco, tirando su le spalle, c'amio. E il nonno, acqua destua il fuoco perché il fuoco non vuol bruciare il baston, perché il baston non vuol bastonare Betin, perché Betin non vuol dare a scuola. E l'acqua, mi noe? E il nonno si inrabbia con l'acqua e gli dice, guarda che c'amo il bo. E l'acqua, tirando su le spalle, c'amio. E il nonno, bo, bevi l'acqua perché l'acqua non vuol destuare il fuoco, perché il fuoco non vuol bruciare il baston, perché il baston non vuol bastonare Betin, perché Betin non vuol dare a scuola. E il bo, mi noe? E il nonno si inrabbia col bo e gli dice, guarda che c'amo a corda. E il bo, tirando su le spalle, c'amia. E il nonno, corda, liga il bo, perché il bo non vuol bere l'acqua, perché l'acqua non vuol destuare il fuoco, perché il fuoco non vuol bruciare il baston, perché il baston non vuol bastonare Betin, perché Betin non vuol andare a scuola. E la corda, mi noe. E il nonno si inrabbia anche con la corda e gli dice, guarda che c'amo il sorse. E la corda, tirando su le spalle, c'amio. E il nono, sorse rosega a corda, perché a corda non vuol ligare il bo, perché il bo non vuol bevere l'acqua, perché l'acqua non vuol destuare il fuoco, perché il fuoco non vuol bruciare il baston, perché il baston non vuol bastonare Betin, perché Betin non vuol andare a scuola. E il sorse, mi noe? E il nono si inrabbia anche col sorse che dice, guarda che c'amo il gatto. E il sorse, tirando su le spalle, c'amio? E il nono, gatto magna il sorse, perché il sorse non vuol rosegare a corda, perché a corda non vuol licare il bo, perché il bo non vuol bevere l'acqua, perché l'acqua non vuol destuare il fuoco, perché il fuoco non vuol bruciare il baston, perché il baston non vuol bastonare Betin, perché Betin non vuol dare a scuola. E il gatto, mi noe? E il nono si inrabbia col gatto e gli dice, guarda che c'amo il can. E il gatto, tirando su le spalle, c'amio? E il nono, can ciapa il gatto perché il gatto non vuole mangiare il sorse, perché il sorse non vuole rosegare a corda, perché a corda non vuole rosegare il bo, perché il bo non vuole bere l'acqua, perché l'acqua non vuole destuare il fuoco, perché il fuoco non vuole bruciare il baston, perché il baston non vuole bastonare Betin, perché Betin non vuole andare a scuola. E il can, che già era proprio amico del nonno, il guarda il gatto e forte sbraggiando il dice, mi sie. E il can vuol ciapare il gatto vuol mangiare il sorse vuol rosegare a corda, e corda vuol ligare il bo vuol bere l'acqua, e l'acqua vuol destuare il fuoco vuol bruciare il baston vuol bastonare Betin. Ma Betin ciapa subito a sacchetta e via il cuore de fiata a scuola. E il nonno si ride e sta benò. Perché è uno scioglilingua, non da poco. In effetti, uno scioglilingua, non da poco. Non da poco, effettivamente. Sì, penso che più che altro l'abbiano scritto. Per fatto. Sì. Però sarebbe utile, diciamo, anche per riuscire, come dire, È utilissimo. Utilissimo per i bambini, eccetera, ma anche per gli adulti, per noi, come si è visto. Anche per chi tante volte fa fatica a trovare parole. Esatto. Cosa facciamo? Ecco, un'altra canzone, direi. Sì. Allora, mettiamo. Allora ci ascoltiamo un'altra canzone e questa volta è il nostro Adriano Celentano che ci canta Azzurro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, territorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario. E allora eccoci di nuovo in studio con un'altra fiaba della Gheggera una volta. Ma stringi. Ma stringi se incontra con nostro Signor Gesù, che ghe dona per suo buon cuor do specifici ricavati regai. Che c'era una volta un vecchio caeguer che passava tutti i giorni che Dio metteva in terra, da drio del suo bischetto a inconar tomeri, a batter brocchette descendena sui tacchi, e a tirar su e a strenzer ben i spaghi sui sioe. E tanto ben li strenzeva che tutti lo chiamava ma stringi, e tutte le sue scarpe leggera sempre ben rifinie e ricavae dai altre d'estaltri caegheri, perché ormai egli aveva fatto il suo ramanego e gli dava ben de chen col bisego qua patina e co tanto de oggio de comio. Ma quello che non potesse avere è questo, che tutte le scarpe che passava sotto le man e durava anni e carampani. E questo perché nel suo lavoro il doparava do robe che nessun altro caeguer gavaria mai podesto doparar. E cosa? Na coia che non se despettava mai, e na scatoia de brocchete che cote impiantavi, e restava in ciodae in seque a sequorum amen. Come mai, ve domandare, che mastringi gaveva ste do robe? E mi ve lo dico subito e par espresso. Un giorno, nel contempo che il geradrio a strenzare i spaghi de un per de sioe, ghe par che a bottega che si illumina de colpo. E u là, fermo in matonio, desta luce slampante che quasi lo orbava. Cosa sarà? Cosa non sarà? E se sfrega ben gli occhi coe man par veder che meggio. E insomma, su e a porta, in frasto ciaro che sgesbaeuca tutta a botteghetta, e vede un gran signor come che non ne aveva visti mai dei compagni, tutto vestito de ceste de oro e coi cavei lunghi e biondi. Sto signor lo saluta e gli dice che è foresto, che se ga perso per la strada e che ga fame, e che a volentiera el se gavaria sentà un momento per destracarse, e che se magari che ne fosse sta e gavaria gradio anche un tocco de pan. Ma stringi se alza e il furbisse scagneo col paiagremo e lo fa subito accomodar. Poi il tira fuori un crogno de pan, l'unico che gavea, e che il suo gesera messo via per sena, e lo rompe in do. E mezzo crogno che lo dà che il signor, e st'altro mezzo se lo mette via per dopo. E il signor lo ringrazia e gli dice: non me ne smentegherò mai che ti tega cavà il pan da bocca per darmelo a me. E così dito, il se alza col suo tocco de pan e andando via, gli dice: altro no go, ma quello che posso darte te lo dago a vuintiera. Tiente ste scatoete, una de coia e una de despetante, e tiente anche sta scatola de brochette e sta tanagetta specifica che ti puoi cavarle via solo che con questa, e nome che quando che ti volti. E se ne va in soso pa' la strada. E se per questo che tu ti indava da mastringi, e nome che da eu, perché scarpe che giustava con che a coia, con che brochette, non se desfava più. Ma è molto carina, eh? Molto carina, sì. Sì, sì. Non ce ne sta un'altra? Un'altra, sì, vediamo. Sì. Ma stringi che fa in barba anche al diavolo e oberliche. Geri morivaia come che Mastringi che aveva imbrogiato a morte, che racconteremo un'altra volta. E adesso vago avanti con la storia del diavolo e oberliche. Intanto i giorni passa, le settimane, i mesi, e passa anche gli anni, una stagione di romanda e un'altra, e Mastringi diventa sempre più vecchio e più piccolo, con i cavei sempre più bianchi. Diese giusti che ne c'era passai da quando che aveva incontrato a morte, e Mastringi se ne accorse perché sul suo calendario attacca il muro e che aveva fatto un sercio rosso proprio sulla scadenza del giorno fissà, e che il giorno ormai al c'era arrivà all'ora giusta, né un momento de pi né un momento de manco, dal dito al fato se gapparà davanti un omasso tutto vestito de rosso che gli pareva un barabao, con mustaccioni de ferro, do brassi da becker, una barba nera come il carbon, coi corni in testa, gli occhi de fuoco e con una coa che finiva in punta de fressa. E tutta la bottega si impenisse della spussa de solfo che a respirarla te mancava il fià. Chi gerino, chi no gerilo? Insomma, c'era niente popò de manco che il diavolo berliche che c'era vigno per portarselo via. Al vedersi davanti a Mastringi che viene un sgorlon dalla paura. «Ti sei pronto?» che fa berliche con una voce d'inferno. «Pronto per cosa?» che domanda Mastringi per vantar tempo, ma con una grande mariola addosso, perché che pareva ormai d'essere in caldieron. «Ti sa ben il par come il par cosa? Mi son venio per portarti via e sta ben tento che mi non son a morte e che a me, che so berliche, non c'è nessun che me abbia mai fatta e che ancora da nasser chi me mangiarà una merenda in testa». «Ho capito», risponde Mastringi tenendo gli occhi bassi, «ho capito tutto. E poi, come se niente fudesse, me manca nome da attaccare ste tobo rocchette su ste dossioe e so pronto a venire via con voi. Guarda che mi non so uno che aspetta, a presta, finisce di impiantare ste tobo rocchette e muovite, che goda a portarti via con me», che dice Berliche. Ma intanto che Berliche si trio a parlare, ma stringi alza gli occhi e come per petesso, facendo che ebbe in davanti, gli dice: «Ma che bel tabarro che gave, che bel color, che bel rosso fuoco, zio de veudo o zio de seda fina?» E il diavolo, che ha tutti i peccai di sto mondo, ma che davanti di tutti sti peccai ha per primo a vanità, subito si ingaia, crestoso, e gli risponde in cicara: «Seda fina, de Palestina!» Ma stringi de suo che muoia da lavorare, e il seneta e man sua traversa e come in magà. «Podaria toccarlo?» e che domanda. E intanto che Berliche e Gedrio fare un giro per far bea mostra, Mastringi che vanta un pinso del tabaro e svelto come un lampo lo pusa sul banchetto che descondon e che lo inciuda con una dei suoi brochette. E poi alzandosi, «Demo?» e che domanda e va diretto alla porta. Berliche è convinto d'aver la vua vinta e fa per muoversi, ma niente da far. E prova ancora. Niente da fare, e prova ancora e ancora niente. E se proprio è che si incorse che un pinzo del suo tabarro si resta inciodà sul bischetto, e ora il tira le gambe, e se punta qua coa, il muove i brassi, se sguatara tutto, ma niente di niente, che il maledetto tabarro restava là inciodà come che a man de un caia resta inciodà dal gran sio che il gain scarsea. E ora con la voce cavernosa che tutta la bottega trema: «Ma stringi!» e il siga: «Ma stringi!» E «Ma stringi? Cosa diavolo seo tutto sto sacasan? Cosa sei sti sighi?» E il diavolo, rugnando forte: «Che ti venga il coera, a giandussa, il tinfo, il tanfo, a rogna, il ganfo, a cagario e il simioto in crosa, ti mega sta proprio combinata!» E tirando come un demonia il pinso del tabaro: «Cosa gozo mai de far perché ti me muoi?» E Mastringi: «Me pare Sanson che sbrega a carta bagnata col cuoio, perché coi vostre forze altro non pote far, ma mi sì che potrei far qualcosa. Per esempio, potrei desbroccarve, se mi impromettete a sarmi quieto, disemmo per altri 10 anni. E Berliche, che pareva da essere in Grea, sovra e pronsi in Frugae, che tocca a dir: «Va ben, fra 10 anni, stesso giorno, stessa ora, ma ti vedrà ti queo che te capiterà. e m'astringi. Male non fare, paura non avere. E così dicendo, il tira fuori dalla scarsea di attraverso una tanagetta specifica che desciodava tutte le brocchette che aveva impiantato e che desciodava il pinzo del tabaro. E il diavolo per lì che via de corse a gamba in spaia, coto, conso e scornà. E così m'astringi continua a restare là, nella sua botteghetta, aggiustar scarpe e reboti e a incoerto Tomeri. Sai che simpatiche. Guarda che le favole sono sempre Sempre simpatiche. A parte magari qualche piccola imprecisione, ma insomma ci accontentiamo anche di questo. Ma scherzi. Vabbè, allora siamo arrivati anche stasera alla finale della trasmissione. Bene. Allora ti ringrazio, anche se sei arrivato tardi, ringrazio lo voi stesso, per la pazienza nell'aspettarmi. E con te, con il nostro regista Eddie Dai, ci diamo a tutti una serena e buonanotte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.